Ma scusate, a chi fa piacere avere a che fare con persone sempre con il muso? Il sorriso è un'arma incredibile, rende possibile l'impossibile, è una chiave che apre tutte le porte. Se sorridi di più, avrai rapporti più soddisfacenti e sicuramente una qualità di vita molto molto migliore. Chi ha imparato a comunicare con il sorriso sicuramente ha una marcia in più. Tre idee riguardo al potere e all'importanza del sorriso nella comunicazione. Il sorriso ci fa sentire riconosciuti, fa sentire alla persona di fronte a te che è importante, che tu stai bene con lui, la fa sentire ben voluta e apprezzata. E chi di noi non sta volentieri con le persone dalle quali si sente apprezzato? Del resto, fin da bambini, la nostra identità non è semplicemente un fatto di natura, non è qualcosa di assodato che deriva dal fatto di stare al mondo. La nostra identità deriva dal fatto che gli altri ci hanno riconosciuti. È il prodotto di una relazione sociale. Noi non abbiamo un'identità al di fuori delle persone che ce la riconoscono. Se la mamma dice al suo bambino che è bravo, se la maestra gli dice che è intelligente, allora giorno per giorno quel bambino svilupperà un'identità positiva. In questo processo anche il sorriso ha un'importanza fondamentale. La nostra identità e la nostra felicità dipende moltissimo da quanto gli altri ci sorridono, da quanto si connettono con noi, da quanto ci restituiscono una buona immagine di noi, anche attraverso i sorrisi che ci danno. Quando noi sorridiamo a qualcuno, gli diamo la cosa più importante di cui tutti noi abbiamo bisogno, l'essere riconosciuti come persone. Quando tu sorridi a una persona, gli comunichi l'idea che va tutto bene. Quando una persona ci sorride, ci rasserena. Se tu sorridi a chi incontri, riuscirai ad abbassare le sue paure, i suoi pregiudizi, le sue difese. Se incontri una persona e la prima cosa che fai è darle un bel sorriso, è come se le dicessi: rilassati, va tutto bene. E se siamo rilassati, effettivamente la probabilità che vada tutto bene crescerà moltissimo. Il sorriso è estremamente contagioso, è un contagio reciproco che ci dona felicità. Chi sorride non trasmette gioia soltanto alla persona alla quale sorride, ma anche a se stesso, perché il sorriso richiama sempre un altro sorriso. Perché quando tu vedi una persona sorridere, gli sorridi a tua volta. È raro resistere a un sorriso sincero e disinteressato. E non scoraggiarti subito se a volte ti sembra che non sia ricambiato. Non desistere, continua a sorridere e vedrai che non passerà molto, che quel sorriso ritornerà anche a te. Il nostro sorriso dovrebbe essere come la pioggia, come il sole. Dovremmo essere capaci di donarlo a tutti, gratuitamente e indistintamente. Perché un giorno senza un sorriso è un giorno perso. Perché nessuno è così ricco da poterne farne a meno e nessuno è così povero da non saperlo dare. E se qualcuno non vi dona il sorriso che attendete, siate generosi, date comunque il vostro, perché nessuno ha tanto bisogno di un sorriso quanto chi non riesce a darlo agli altri. Se il video ti è piaciuto, condividilo e iscriviti al canale, così non ti perderai i prossimi video.